con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent, regia di Danny M. Cari amiche e cari amici, Radio Alma brussellando, Maridì ai microfoni questa sera. Allora, dovremmo essere già apparentemente in primavera, però sapete, in quel di Bruxelles le stagioni le viviamo un po' tutto l'anno, quindi abbiamo iniziato questa primavera con una pioggia scrosciante tale da interrogarci se magari non ci fossimo sbagliati, in realtà altro non era che il primo giorno d'inverno, in realtà il dubbio ancora permane. Però buona primavera a tutti, a quanti possano finalmente godere di un atteso sole, già che qui è pressoché inverno tutto l'anno. E questa sera, per l'appunto, proprio per celebrare questa straordinaria stagione, stagione di primavera in tutti i sensi, quindi anche quello un po' della rinascita, degli alberi in fiore, voglio dire, magari qui a Bruxelles non è tanto evidente, ma in tanti altri luoghi in Italia, così come qui in Belgio, è bello passeggiare e rendersi conto che finalmente gli alberi non sono più brulli e spogli, ma colorati. Allora, Maridì ai microfoni, saluto Dani M in regia e tutti i miei compagni di viaggio, quindi parto da Fiordaliso, che spero sia guarita e buonasera. Che oh dai, non fare così, ti prego, speriamo che la primavera possa essere utile e soprattutto a riprendere quelle che sono le attività in corso e a curarsi ovviamente per bene. Giorgio, che era stato silenzioso finora, per un momento mi sono chiesta, ma stasera voleva fare, confessa, volevi imparare a fare il regista, confessa. Naso di legno, cuore di stagno, burattino, quando diventerai un bimbo come noi. Panimolica, scansa fatica, dove vai? Sono un burattino e non mi fermo mai, ti tiri con le mie scarpe. Questo è per celebrare la primavera, così tutti possiamo camminare allegramente, nonostante... Esattamente, sei commosso. Beh, la primavera in realtà... è sicuramente che bello, è bellissimo, insomma, è quel periodo compreso tra il 21 marzo e il, qui sbaglio sempre perché non ho mai capito molto bene la primavera quando termina esattamente, il 20 giugno? Mamma mia, questa per me è sempre stata una domanda. Abbiamo due equinozi e due solstizi. Benissimo, su questo siamo d'accordo. Concordiamoci però sulle date, quando inizia un solstizio e quando termina e viceversa. Beh, sempre il 21, attorno al 20 il 21, insomma. Non specifichiamo esattamente, però sono 20 e 21. Ricordiamo però qual è la differenza tra l'equinozio e il solstizio? La peppina. Intanto abbiamo due equinozi che, come dice la parola, equinoctis, cioè stessa durata del giorno e della notte, e ne abbiamo due. Uno all'inizio e uno alla fine. E poi abbiamo due solstizi, solstizio d'inverno e solstizio d'estate. Quando? Beh, allora, il solstizio d'estate, questo lo so, è il 21 giugno. E quello d'autunno pure lì ho sempre un dubbio sulla data, 21 settembre o 23 settembre? No, cosa? Si alternano. L'equinozio e il solstizio si alternano, quindi sapendo uno dei quattro parametri possiamo ricostruire gli altri. Bene, allora noi fra poco avremo in diretta Mario dal Piemonte, e poi ci dirà lui esattamente da dove, è un dottore, ci racconterà insomma un po' di cose, un po' di cure. Che dottore magari... nel senso di medico? Dottore nel senso di medico, sì, è vero, a volte, sì, è proprio un medico, però intanto ritorna, vedo già la NM impegnato in regia comporre il numero di Mario. La primavera è sicuramente uno dei temi che tanto ha stuzzicato l'intelletto, le arti, quindi la primavera è uno dei movimenti delle quattro stagioni di Antonio Vivaldi, è un celeberrimo quadro di Sandro Botticelli. Ticelli, è una statua allegorica di Benedetto, e qui Giorgio, correggimi se sbaglio, Antelami o Antelami? Bene, Benedetto Antelami o Antelami? Antelami. Antelami, dai, preferisco pure io. E volevo salutare inoltre tutta la comunità iraniana che invece ha celebrato il nuovo anno proprio in occasione dell'equinozio di primavera, e noi abbiamo avuto modo di festeggiare questo nuovo anno iraniano proprio ieri sera. Eravamo quasi 60 persone, non vi dico, insomma, in un angusto ristorante, anche se ottimo, a Rive Sassar. Un auguri quindi a tutta la comunità persiana a Bruxelles, in Belgio, a quanti ci ascoltano per il nuovo anno. Beh, ti sei già dato una risposta, hai detto l'equinozio di primavera. Quindi, essendo alternato, cioè dopo l'equinozio di primavera c'è il solstizio d'estate, poi l'equinozio di autunno e il solstizio d'inverno. Beh, perfetto. Oh, che bello. Tra poco, inoltre... Questa è la vera maieutica. Oh, ti ringrazio Giorgio, davvero io come farei senza di te? Come diceva qualcuno, la risposta è dentro di te, ma è sbagliata! Ma chissà, sai che a volte... Chissà se qualcuno degli ascoltatori ricorda. La primavera forse sarebbe anche quello, dopo l'autunno, insomma, dopo il gelo, primavera. Autunnale, invernale, la rinascita, primavera. No? Perché I fiori anelitano. Perché primavera? Perché primavera? È venuta prima, cioè c'è cioè prima la... È venuta prima, no, infatti prima, perché in latino era erano prima. Autunnus, aestas, ver e hiems. E quindi in realtà si chiamava vera in era latino, vera. Non primavera. Ed era la prima della classe, e così è nata la prima vera. Sì, è una ricostruzione abbastanza creativa, però non è che corrisponde molto alla verità. In ma realtà tu sai io non so, che mi affido a te per tutte non sono riuscito a trovare il momento in cui la vera diventa primavera, però primavera è tradotto correttamente in inglese come early spring, cioè la parte anteriore del periodo, la parte che comincia. Quindi per noi è sempre primavera, in realtà è la parte iniziale di questo periodo che nel modo latino viene chiamato vera. Però, ahimè, non sono riuscito a trovare l'origine, il momento in cui la parola vera è stata associata a questo aggettivo, primavera, per diventare poi quella che in italiano è primavera. Pensa un po', in persiano invece primavera è farvardin. Però. E lì poi un giorno magari ci chiederemo, parleremo anche dell'Iran, tra l'altro, perché a 30 anni da quella che è la rivoluzione insomma iraniana sarebbe simpatico sapere e capire cosa sta succedendo anche in quella splendida terra di Persia che tanto mi piacerebbe visitare, chissà. Mario. Pronto? Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Grazie, molte grazie. Allora, io, noi tutti qui questa sera abbiamo deciso di lasciarti raccontare, quindi ho detto pochissimo proprio sul tuo conto perché sei effettivamente medico di formazione, ma so che sei anche abbastanza eclettico perché riesci a seguire tanti interessi, quindi raccontaci qualcosa di te, racconta ai nostri ascoltatori quelle che sono le tue passioni. Quante ore ho? Allora, guarda, poiché questa è l'era della velocità, il tempo e il radio, come spesso purtroppo mi capita di dire, tiranno, diciamo che avresti 120 secondi, tradotto in... due minuti. Per descrivere chi sono, quasi come nella Bohème, sono medico, come giustamente avete sottolineato, e mi sono interessato a un sacco di altri aspetti di quella che chiamiamo la sfera del benessere, altri volendo intenderli non già in contrapposizione con quella che è la medicina ufficiale, ma in completamento, in effetti la dicitura più corretta per le branche che io pratico è di medicine complementari, che vanno a integrare là dove la medicina ufficiale, che ha un'infinità di pregi, non riesce a completare l'opera della aspirazione al benessere. E devo dire che tutto questo mi diverte un sacco, al di là del beneficio diretto che se ne ricava, perché riconosco con il passare del tempo che questi approcci sono fortemente significativi, no? Sulla salute, io ne provo una importante gratificazione, so di essere un privilegiato da questo punto di vista, è così raro trovare gratificazione professionale nel proprio lavoro. Sono contento di quello che faccio. Ho esaurito. Credo abbastanza bene, anche perché come ti accennavo, insomma, quando ci sono sentiti via mille, questa sera parliamo di primavera, quindi magari sarebbe simpatico se potessi sostenerci, aiutare in alcune cure per evitare magari facili raffreddori, insomma, come stare attenti durante questi mesi primaverili che tendono ora al caldo, ora al freddo, insomma, ora... c'è una proposta non troppo canonica che vale la pena prendere in considerazione, non riguarda soltanto il passaggio dalla stagione fredda a quella tiepida, ma si può applicare in tutto l'anno, però in particolar modo in questo periodo quando l'organismo esce dalle fatiche dell'inverno e il fegato si trova appesantito a volte anche da certi eccessi di cibo che sono una caratteristica prevalente del periodo invernale. La caffeina, come noi la conosciamo, esplica degli effetti soprattutto stimolanti del sistema nervoso, perché siamo abituati a considerarla una bevanda che va presa per bocca. Presa dall'altro capo della apparato digerente in forma di clistere, un bel clisterone di caffè, esplica uno straordinario effetto, per dirla in termini medici, colerettico, cioè stimolazione della funzione di produzione di bile, quindi di disintossicazione da parte del fegato. Ed è uno strumento prodigioso che è nato a opera della mente geniale di un oncologo tedesco trapiantato negli USA e che si chiamava Gerson, e ora pian piano si sta diffondendo. Volete la ricetta vera e propria? Sì, dai, affidiamoci a quella che è vera, no, che è della prima vera. Sì, la prima vera. No? Gerson suggeriva di far bollire 2-3 cucchiaioni di caffè biologico, che ormai si trova un po' ovunque nei negozi d'Europa, in un litro d'acqua a fuoco basso per un quarto d'ora. Però l'esperienza dimostra che una bella caffettiera italiana da 10 tazzine ottiene lo stesso effetto e semplifica le cose, si fa molto prima. Si aggiunge dell'acqua fredda per arrivare a circa un litro e poi ce la si spara dentro, rimanendo poi girati sul fianco destro, in modo da far risalire tutto questo liquido all'interno dell'intestino per una decina, dozzina di minuti. Detto così è un po' spaventevole, ma si può fare. Hai incuriosito l'attenzione di tutti i nostri cari conduttori, insomma, dovremmo metterci più spesso, magari per suggerirci veramente cose alternative. No, aspetta, perché devo. No, cioè... io no, vorrei che continuasse, infatti, però se hai domande, infatti. Dai. No, la domanda era dopo quanto fa effetto e quanto bisogna rimanere sul fianco destro, perché... Bisogna rimanere, secondo la modalità canonica, 12 minuti, che sono il tempo medio perché tutto il sangue del nostro corpo faccia 3 volte il giro di tutto, quindi per 3 volte passi anche dalle parti del colon e quindi riesca a ciucciarsi tutto ciò che il colon assorbe. La funzione fondamentale del colon è quella di assorbire acqua, che per l'organismo è molto preziosa ed è anche una comodità per evitare che noi si abbia la diarrea continua, ovviamente, per concentrare la massa fecale. Insieme con l'acqua vengono assorbite le sostanze idrosolubili, come per l'appunto la caffeina. 3 cicli completi garantiscono un assorbimento pressoché ottimale. E inizialmente può essere difficile perché... l'organismo si chiede che stranezza sia mai questa e non ha nessuna voglia di starsene in quella scomoda condizione, soprattutto per gli uomini che non sono geneticamente programmati a ospitare corpi estranei nella loro pancia, al contrario delle donne che fanno i bambini, quindi hanno già una certa propensione a queste cose. Ma si tratta di allenarsi un po', dopodiché la cosa funziona bene e l'effetto, mi chiedevi, l'effetto è immediato, nel senso che quando concludi e ti liberi di tutto questo, hai subito una sensazione di benessere, di alleggerimento generale. La prima volta che l'ho suggerito, la prima volta che una donna a cui ho suggerito di farlo ha eseguito la tecnica, dopo 2 giorni mi ha riferito che si sentiva la pelle meno burrosa, questa è proprio stata la sua espressione, perché aveva dei problemi seri di pelle grassa e in questo modo si è drenata spontaneamente, il fegato ha ripreso a fare il suo lavoro. In questa stagione è un piccolo toccasana. Quindi lo consiglieresti a tutte le nostre, in particolare a tutte le nostre ascoltatrici? Assolutamente a tutti. A tutti. Non ti sento insomma... più però. Ah, scusami, ora mi senti meglio? Sì, adesso va bene. Allora. Assolutamente a tutti, maschi come femmine, bisogna soltanto programmare un certo tempo, non si può fare una cosa rapida perché ci vuole un'oretta in tutto per poter completare l'opera, ma è uno strumento di grandissima rilevanza, di pochissimo impegno, praticabile da chiunque, di minimo costo, veramente un bel sistema. Per predisporci al caldo che speriamo comincerà ad arrivare. Speriamo, guarda, non ne possiamo più. Però raccontaci anche gli altri interessi. Io so che mi avevi accennato qualcosa via email. Al di fuori della professione, intendi dire? Assolutamente, sì. Io ho una forte spinta, ma non direi che tanto al di fuori della professione, alla spiritualità, che difficilmente riesco a concretizzare. non sto parlando di religiosità, quella comunemente intesa, non una fede religiosa, è proprio l'anelito alla completezza interiore, al respiro cosmico, se volete si possono usare espressioni ancora più roboanti, basta che ce le inventiamo. Ed è difficile, come ben sapete, nella nostra società, però se sono nato in Europa anziché in Tibet, il Tibet di questo tempo non è una terra felice per la spiritualità, poveretti tibetani. Forse sarebbe più giusto parlare del Bhutan, che sembra ben orientato verso la crescita della felicità non necessariamente materiale. Comunque, insomma, l'Himalaya sembra la terra di elezione della spiritualità, forse anche perché è così elevato. Ecco, è a qualcosa del genere che io aspiro. Beh, questa poi la tua pratica di dottore, insomma, quotidianamente, credo ti possa anche un po' aiutare, almeno in termini di riflessioni. Sì, occorre una certa pratica di quello che in termini usuali viene chiamato meditazione. Certo. Una attenzione a se stessi, se si vuole praticare secondo il metodo di Buddha, la vipassana, attenzione al proprio respiro, ma ci sono infinite tecniche. Ho capito. Ti volevo anche, vedo George incuriosito, quindi credo che sia lì pronto per una domanda. Sì. Va bene. Sì, mi interessa molto, dato che parlavi all'inizio di medicina complementare. Sì. Quindi immagino che tu, come medico, adotti anche la medicina, diciamo così, classica, la medicina occidentale. Sì, certo, questo è il primo approccio. Quando la persona arriva, io la inquadro secondo ciò che ho imparato all'università, certo. Ecco, io volevo sapere, poi, visto che però hai fatto anche questo percorso all'interno della medicina complementare, quindi anche all'interno, stai seguendo un percorso di spiritualità, quindi probabilmente stai avendo degli approcci diversi non so, alla vita in genere, quindi anche al corpo umano. Ecco, come riesci a, qual è il punto di contatto fra le due medicine, o come riesci tu, qual è la tua via per mettere insieme le due medicine? Io credo che il punto di contatto sia l'umiltà, e vale per qualunque aspetto della conoscenza. Nel momento in cui le mie conoscenze di medicina ufficiale si scontrano con una realtà che va oltre, l'umiltà del medico uscito dall'università gli fa dire che è opportuno introdurre altri elementi, e viceversa, per carità, non è che le medicine cosiddette alternative curano tutto, e figuriamoci, ci sono gli accidenti vascolari acuti, i traumatismi, eccetera, che non possono che essere curati da interventi d'urgenza della medicina ipertecnologica. Se si affronta la realtà, quale che sia, con un atteggiamento umile, io so delle cose, magari ne so anche tante, ma non le so tutte, allora si riesce a far dialogare, ma anche gli uomini politici dovrebbero adottare una strategia del genere, che purtroppo il più delle volte non lo fanno, e vale per qualunque schieramento, per qualunque nazione, lo sappiamo. L'umiltà mi sembra la chiave per la comprensione. Beh, mi sembra un ottimo approccio quello dell'umiltà. Sì, andrebbe veramente ricordato più spesso, forse. Sì, a livello generale, certo, a livello generale. Sì, perché anche l'umiltà del ricercatore, l'umiltà dell'esploratore. Oh sì, assolutamente. Senza assolutamente. Umiltà. Nella ricerca, non soltanto medica, biologica in generale, molto spesso ci si scanna su particolari banali, perché ogni scopritore di una minima catena enzimatica spera, pretende di essere citato come l'eroe planetario del momento, il che magari è anche vero, perché certe scoperte brillantissime possono aver cambiato le sorti di un lungo percorso nella medicina, nella biologia. Ma quando viene a mancare la pluricitata umiltà, c'è un aspetto della visione che manca, non è così completa, non può essere così completa, non potrà fare così bene. Mario, purtroppo, come ti annunciavo prima, il tempo in radio corre veramente veloce. Saluto magari a qualche tuo amico, conoscente, insomma, persone care a cui vorresti anche indirizzare magari un messaggio in particolare? Ma qual è la portata delle vostre onde radio? Ma noi ci ascoltano su tutta la regione di Bruxelles, quindi copriamo un raggio di 2 milioni di persone. Ah, caspita. Questo, insomma, è il potenziale. Però ci sono devo dire, che siamo anche su internet, quindi uno può anche scaricare la trasmissione. Sì, ma mi viene in mente, ve lo ricorderete, Nash, quel bellissimo film di Altman, quando Donald Sutherland fa lo scemo davanti a una videocamera di una soldatessa che fa la giornalista, e si toglie il cappello e dice: ciao papà. Io non ho nessuno in particolare da salutare, però vi lascio volentieri con questa buffonata. Va bene, ottimo. È stato un piacere averti nostro ospite, insomma, speriamo di risentirci magari con argomenti meno attinenti alla tua professione di dottore, chissà chi lo sa. No, perché no? Ti ringraziamo della tua squisita disponibilità e ti auguriamo un'ottima serata. Anche a voi, buon proseguo. Grazie, a presto. Ciao. Ciao. Credo che dalla regia si stiano divertendo questa sera. Sono come fiori prima di vedere il sole a primavera. Ora sì, ritorniamo con la nostra agenda su quest'onda di primavera. Perché, come annunciavamo poco tempo fa, la primavera è ovviamente alle porte e con essa tanti gli eventi di questa nostra straordinaria capitale europea. E ci sono tantissime cose, infatti veramente ho l'imbarazzo della scelta. Comunque, cominciamo da quello che è uno degli argomenti di cui abbiamo parlato recentemente, e cioè il fumetto. Come sapete, quest'anno proprio qui in Belgio e per tutto il 2009 si festeggia il fumetto, quindi un secolo di fumetto belga sarà esposto al Museo delle Belle Arti dal 27 marzo e fino al 28 giugno. La mostra reca il titolo Regard Croisé de la Bande Dessinée Belge. Sono 20 gli autori contemporanei che saranno esposti per 3 mesi proprio nelle splendide sale dei Musei Reali delle Belle Arti, e penso che possiate ritrovare un po' di tutto, insomma, quelli che sono poi i grandi del fumetto belga, tra cui qui si citano Schulz, Alex Raymond, Wilson McKay, Pratt e Tardi. L'esposizione è aperta tutti i giorni, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 17. Giorgia. Illusione comica. Alcandro, un vecchio senza tempo, ma è un mago. Nella sua grotta conosce l'avvenire, le cose del passato e il segreto dell'universo familiare dei luoghi. Dorante conduce quivi il suo amico Pridamante, che cerca il suo figlio, Clindor, che è fuggito dopo 10 anni da un'educazione troppo stretta. Improvvisamente la grotta si modifica, metamorfica, in un teatro, e il giovane uomo appare. appare come per magia. E questo è l'illusione comica dal Teatro Varia, 78 Rue du Sceptre a XL. E il piazza di teatro si terrà dal 10 marzo al 28 marzo. Teatro Varia, 78 Rue du Sceptre. Invece, sempre per restare in tema di fumetto, a quanto pare, fate attenzione a quelle che sono le mura di Bruxelles, perché quasi tutti gli spazi ancora bianchi saranno presto resi celebri attraverso quelle che sono probabilmente le gesta epiche di Tintin. Non è uno scherzo, a quanto pare la villa di Bruxelles, in collaborazione col governo della regione bruxelloise, investirà nel 2009 circa 300.000 euro per realizzare quelli che sono i nuovi affreschi. Pensate, probabilmente ci sarà più di un percorso, ci sarà più di una strada, quindi, che sarà abbellita proprio da quelli che sono i personaggi più amati da grandi e ovviamente bambini. E poi ancora un altro pezzo di teatro, Fattore Umano. Ludovico è un extraterrestre, o almeno così afferma lui. È per questo motivo che passa la maggioranza del suo tempo a costruire una astronave per al fin giungere a raggiungere suo padre sul suo pianeta. E vive con sua madre, che sostituisce regolarmente al chiosco i giornali, una madre invadente che si rifugia somewhere over the rainbow, da qualche parte, sull'arcobaleno, nel mondo incantato del mago di Oz. Un giorno incontra Sandra, una giovane ragazza estremamente bella, che sembra saperne molto di lui. E lei lo intriga, lo affascina, e a poco lo porta a condurre, e lo porta a capire perché sua madre si comporta in questo modo e perché lui non può essere alla fine così extraterrestre come pensa. Sembra interessante. Sì, è molto interessante, anche insomma mi ispira questa cosa. Al teatro Le Public, Rue Brempt 6470 1210 Bruxelles, dal 26 marzo al 25 aprile. Teatro Le Public, Rue Brempt 64. Invece, in occasione di quella che è la commemorazione della firma del Trattato di Roma, l'Associazione dei Commercianti di Carrefour de l'Europe organizza un'azione per insomma ricordare questo momento importante della storia europea. Dal 31 marzo al 3 aprile 2009, dalle 12 alle 15 e dalle 17 alle 20, la Rue Archimède, quindi Archimede Street o Archimede Street, accoglierà tutti i passanti con squisite finezze culinarie. Non è dato sapere se di queste culinarie sono semplicemente belghe oppure riguardano un po' quelli che sono i 27 paesi europei, però George, dai, che tu sei a quattro passi, potrai sicuramente andare a raccontarci poi insomma di questa esposizione Boire et manger en Europe, dal 31 marzo al 3 aprile, Carrefour de l'Europe et les rues avoisinantes. E chi non può andare a mangiare perché come me è a regime, cioè a dieta. Beh, c'è una cosa interessante. 4 anni fa questa cosa non era che un panorama, uno sguardo su un continente. E invece adesso è diventato un festival, e sto parlando del quinto festival del cinema africano, che è al cinema Vendôme a Chaussée de Vavra. E poi ogni giorno dal 1 al 4 aprile, quindi non perdetelo perché è un festival non troppo lungo, insomma 4 giorni, però anzi 3 giorni dal 1 al 4, però state attenti che questo è un cinema molto interessante e questo festival è assolutamente da vedere, almeno fare una piccola capatina a Chaussée de Vavre al cinema Vendôme. Bene, sento già il tappeto annunciare quello che è il cambio della piccola vedetta o delle piccole vedette. Lasciamo quindi la parola a quelli che sono i suggerimenti musicali dei nostri cari amici Paolo e Stefano, che ringrazio come sempre della squisita puntualità. Benvenuti e bentrovati. Grazie Meridì, siamo qui questa sera, bellissima sera, per marcare la primavera. Buonasera, la primavera è arrivata, mica tanto. Noi allora cerchiamo di portarla in musica, quantomeno. Beh, ma la primavera è anche un po' di spirito, e appunto noi contribuiremo con i nostri pezzi di oggi. Peccato che non facciamo musica classica. perché ne avremmo tante di, sì, di citazioni. Sì, sì, sì, certo. Anche con il jazz siamo riusciti a scovarne di belle. La prima è che è un'invocazione, vero Stefano, tutto sommato? Eh sì, perché il titolo, ve lo diciamo questa volta prima, è It Might As Well Be Spring, cioè potrebbe anche essere primavera, direi che si addice molto alla situazione qui a Bruxelles. Ideale, con un po' di fantasia potrebbe anche essere primavera, ed è un pezzo che vi facciamo sentire interpretato da due grandi artisti con due percorsi molto differenti. La prima è Astrud Gilberto. Sì, Astrud Gilberto, il nome certo non fa immediatamente pensare, no, uno pensa a Sturmtruppen. Esattamente, infatti il padre di Astrud era tedesco e invece la madre era brasiliana, e Astrud Gilberto è una importante cantante brasiliana. Perché è così importante? È importante anche un po' per il fato, perché si trova a sposare uno dei grandi musicisti brasiliani di sempre, che è João Gilberto, e nel 63, quando João Gilberto e Stan Getz, grandissimo sassofonista, registrano un disco importante a New York, lei è in sala di registrazione nel momento in cui il produttore della Verve, che produce questo disco, cerca qualcheduno che spiccichi una parola d'inglese. Ed ecco che quindi trovarsi al posto giusto, al momento giusto, può cambiare la vita. Esatto. Adesso sentiremo questo pezzo e riconoscerete subito il tono della voce e le meravigliose sonorità che riesce a produrre. Astrud Gilberto, It Might Be As Well Spring. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumping as a puppet on a string. I'd say that I have spring fever, but I know it isn't spring. I'm a starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Should I have spring fever when I know it isn't spring? I keep wishing I was somewhere else, walking down the street. Astrud Gilberto, It Might As Well Be Spring, pezzo che è contenuto in un disco del 1996, e sentite questa voce sua non educata. Lei non aveva nessun percorso musicale established, non aveva mai fatto della musica professionalmente, però questo suo tono un po' naif la rende molto popolare, perché ha un'atmosfera leggera che ha grande successo negli anni 80. Sì, poi si lega molto bene con queste sonorità del Latin Jazz, no? Che ha caratterizzato metà degli anni 60, direi. Questo disco del 63 che è Getz Gilberto, su cui lei fa un verso in inglese di cui parlavamo prima, la canzone naturalmente è Girl from Ipanema. Sì, uno dei classici. Bene, adesso vi proponiamo lo stesso pezzo ma completamente diverso, con delle sensibilità diverse, certamente non meno belle, senza il canto in questo caso. Il canto in questo caso viene fatto un po' dal pianoforte. Sì, la voce molto originale di uno strumentista giovane, già molto affermato, Brad Meldau, nato nel 1970, un ragazzo prodigio che vince dei premi subito e fa grandi esperienze con nomi sacri come il batterista Jimmy Cobb, Joshua Redman, grandissimo sassofonista. Sì, è uno di quei casi in cui, diciamo, un prodigio giovanile mantiene le promesse, perché continua a suonare, a creare dei pezzi meravigliosi, e si confronta anche con musicisti importanti. Pat Metheny recentemente, lo abbiamo sentito anche qui a Bruxelles, quindi l'abbiamo sentito a New York, non so se insieme, ma insomma l'abbiamo sentito in tante salse. A Umbria Jazz, ha fatto grande successo Brad Meldau, un artista molto apprezzato dal pubblico perugino e italiano, perché è un artista originale. Adesso sentiamo il pezzo di lo stesso pezzo interpretato prima da Astrud Gilberto, da lui suonato in modo molto toccante, molto vicino alle sue corde che sono così liriche e differenti, e vi rendete conto della sua originalità di tocco e di arrangiamento. Sì, è tratto da un disco del 1995, quindi aveva 25 anni Brad Meldau, e il disco si intitolava appunto Introducing Brad Meldau. Il pezzo è sempre lo stesso, It Might As Well Be Spring. Bene, un assaggio di Brad Mehldau, Introducing Brad Mehldau del 1995, It Might As Well Be Spring. Una cosa che voglio dire di Brad Mehldau, che mi apre il cuore, che ha registrato un disco di uno di quei gruppi che io mi sentivo quando avevo 18 anni, Soundgarden, nel 2006 in un live ha registrato Black Hole Sun, che è un pezzo di questo gruppo che forse tu ricordi, da Seattle, Soundgarden. Pensa però che originalità e che coraggio di un artista jazz già ormai affermato a registrare un pezzo del genere. Hai detto bene, un artista che ha coraggio, ha voglia di innovare, di mettersi alla prova sempre in situazioni diverse, e forse questa caratteristica lo lega anche a quest'altro artista che io ho in realtà già citato, perché hanno suonato anche insieme. Certo, Pat Metheny, che è uno dei mostri sacri della chitarra jazz degli ultimi 30-40 anni e che ha collaborato con tantissimi artisti differenti, devo dire veramente innovando lo strumento per la sua capacità di inventare un modo nuovo. Insomma. Sì, anche inventare lo strumento, perché poi ha cambiato proprio, ha creato proprio degli strumenti che derivano dalla chitarra, ma che poi di chitarra alla fine hanno veramente molto poco, a parte le corde. Molto complessi, no? Questi ponti di chitarra che si intrecciano. Lui è un virtuoso, ma non nel senso, come dire, derisorio del termine, uno che ha grandissime capacità tecniche. Leggevo che lui si iscrisse all'Università della Florida, poi dopo un semestre si ritira e inizia a insegnare, perché era più bravo degli insegnanti. Sì, sì, poi è una persona estremamente generosa anche in termini musicali, sì, nei concerti si concede sempre moltissimo, fa tantissimi concerti ogni anno, e soprattutto ha creato e ha invitato numerosi musicisti anche nel suo gruppo. Lo ascolteremo in una formazione appunto di gruppo, Pat Metheny Group. Ci sono molti musicisti che sono transitati attraverso questo gruppo e poi sono diventati estremamente famosi. Uno di questi in realtà è l'altro membro fisso del gruppo, ed è il tastierista Lyle Mays, che un po' costituisce la sua altra anima. Certo. È sempre un po' in sottofondo, ma è decisamente notevole. Bene. Il pezzo che vi proponiamo ha a che fare con anche questo, con la primavera. Sì, perché si chiama La primavera non c'è, Spring Ain't There, da Letter From Home, che è uno splendido disco del 1989, Pat Metheny. Spring and There, sentite questo fraseggio così elegante, molti toni acuti, un fraseggio breve, l'ha inventato lui, bisogna dire. Sì, sì, poi è un fraseggio molto chiaro, melodico, sì. che penetra, anche se sono spesso delle costruzioni piuttosto complesse sul piano musicale. Rimaniamo in zona di grandi mostri sacri, perché l'ultimo pezzo che vi facciamo sentire questa sera appartiene a un contrabbassista che ha fatto tra l'altro uno splendido disco con Metheny nel 96, che è Beyond the Missouri Sky, ed è Charlie Hayden, qui assieme a Kenny Barron. Kenny Barron, pianista un po' dannata rispetto a quello che vi abbiamo fatto ascoltare fino al 43, molto attivo sulla... non solo negli Stati Uniti, potremmo anche dire, in Italia, anche suonato in Italia. Da pochissimo al Forum a Roma, però devo dire Charlie Hayden come statura, originalità compositiva è un po' di un'altra scala, ed è anche un grandissimo innovatore, è uno dei padri di quella forma che poi forse vi faremo sentire qualche volta, che è il free jazz, questa forma compositiva molto libera e molto originale e un po' selvaggia che nasce tra gli anni 60 e 70. Il pezzo che vi facciamo ascoltare in realtà come titolo è esattamente il contrario di quello che abbiamo detto prima, perché il titolo è Spring Is Here. Per cui con l'augurio che la primavera ci sia effettivamente, e con Charlie Hayden, che è un uomo di grandi passioni, pensate che in tutta la famiglia Hayden si suonava fin da quando lui era piccolo, e vuole la leggenda, loro avevano uno spazio radio, la famiglia Hayden, e si dice che la madre l'abbia portato in radio per i primi vagiti a 22 mesi, lui abbia iniziato a cantare. Fa bene andare in radio, possiamo dirlo. Bene, il pezzo che sentiamo è un pezzo dal vivo, lo sentirete registrato a New York, lo sentirete dagli applausi iniziali, e con questo pezzo noi vi salutiamo e vi rimandiamo alla nostra prossima puntata. Buona serata e a presto con Charlie Hayden. Spring is here. Come angolo, perché qua verrebbero proprio delle fiori nell'aria questa musica. Comunque, librangolo. Librangolo. Librangolo. Cosa è successo? Qualcuno l'ha ammazzato. Scaricata la batteria. Si sente già angolo, quindi è un po' strozzato. Però potrebbe anche essere pietra miliare. Senti la primavera, Giorgia. È primavera, e quindi le cose escono, e quando nascono fanno dei vagiti. Ti svegli dal letargo, ti svegli dal letargo. Va bene così? Benissimo, molto guarda. Bene. Comunque, la primavera è gioia esplosiva. Questo non l'ho sentito, però. Ecco, è rinascita, come abbiamo detto, è la speranza degli inizi. E purezza, ecco, sono colori brillanti e profumo di fiori. Cioè, ovviamente non vi posso offrire tutto questo, anche se vorrei. Però parlerò un po' della rinascita, che anche nella natura avviene dopo l'inverno. Quindi nei libri possiamo tradurlo in termini di tragedie e inferni personali che, passati, dopo danno magari un'opportunità ai protagonisti di ricominciare la loro vita da capo. Per esempio, il libro di Wilkie Collins, Senza nome, in cui la protagonista è Magdalene, una ragazza di cui i genitori non si erano mai sposati, quindi al momento che lasciano lei e sua sorella da soli sulla faccia della terra, la legge non riconosce la loro esistenza praticamente, almeno dal punto di vista legale, perdono il loro cognome e perdono anche la possibilità di ereditare. Quindi il loro patrimonio va dal fratello della mamma, e le ragazze sono rimaste nel mondo di fare quel che riescono a fare. La più grande si rassegna, invece la più piccola, Magdalene, si ribella e decide di vendicarsi. In questa sua impresa non è che si fa molti scrupoli, proprio scende negli inferni e si associa anche con dei malviventi, per esempio con un ruffiano di nome Capitano Vraghe. E poi comunque, dopo tanti di queste ricerche comunque inutili di riguadagnarsi questo patrimonio, ha la possibilità di redimersi attraverso l'amore. Io vi raccomando questo libro, ma non soltanto questo libro, ma tante delle opere di Wilkie Collins, che è un maestro del suspense, del carattere umano e dei suoi aspetti più inquietanti. Infatti è stato uno dei scrittori di giallo più diciamo del 1800, che sono molto interessanti. La speranza degli inizi è consentita in modo un po' strano ad un gruppo di persone che sopravvivono sopravvivono ad una bomba atomica un po' strana, nel romanzo di Robert Merle di titolo Maléville. La bomba li fa tornare dagli inizi della società, praticamente governate dalla clemenza della natura, diciamo, e dall'istinto della sopravvivenza. Prevale però alla fine in questa situazione la speranza, anche sapendo che la sapienza e la scienza può portare alla distruzione, i sopravvissuti decidono di utilizzare le informazioni rimaste per ricostruirsi un futuro sviluppato, fra virgolette. Anche se così detto magari non sembra una trama molto eccitante, credetemi che Robert Merle è un raccontatore di maestria proprio, ed è un libro molto interessante che vi raccomando tanto. Beh, lo so che fino adesso quello che ho detto non è molto, diciamo, ottimistico. Cioè, sono tutte delle storie cupe che, beh, alla fine c'è la rinascita, c'è la possibilità di ricrearsi un mondo nuovo, una vita nuova, però comunque, cioè, le cose che lo precedono sono abbastanza spesanti. Quindi, per finire, ho scelto comunque una cosa più leggera, un romanzo di Jane Austen che si conosce magari un po' meno, che si chiama Persuasion, cioè Persuasione. Persuasa dai parenti cauti, Anne, giovane, cioè in quel tempo giovane, rinuncia all'amore di sua vita, che però appare d'improvviso di nuovo nella sua vita quando è già 27enne. Beh, in quel periodo essere 27enne e non sposate era un po', cioè, tipo problematico. Comunque, all'inizio prevale il risentimento da parte di Frederick. Però poi riesce di nuovo anzi ambedue riescono a vedere quali erano quelle cose che apprezzavano uno nell'altro, e anche maturi rivivono alla fine quest'amore che li fa gioire e li fa da primavera anche da maturi, non soltanto da giovani. E con questa nota che vi lascio stasera, che cosa vi lascio stasera? Avete ancora qualcosa? Abbiamo un sacco di cose. Oh. Sì, abbiamo ancora vari eventi di cui parlare, annunciare. Abbiamo 20? 20? No, meno di 20. No, meno di 20. Volendo 20. Hai detto tu, vari 20. Probabile. E 20 sono gli eventi virtuali. Ah, ecco, i 20. Gli eventi. 30, 40, 50. Sono 20, sapete, elettronici. Poi tra un po' ci sono gli e greci. Allora, per ellinici. Ellenici. Per dire un'altra bella cosa, adesso dico un nome, lo pronuncio in modo corretto. Ho una cosa di teatro che mi piace molto ed è Ottilo, Regina dei Belgi o L'Odissea di una madre. Regina. C'è scritto così, Ottilo, che Ottilo. Lo so in ungherese è un uomo, e anche noi sappiamo che Attila è il re del flagello di Dio, è pure la regina dei Belgi. E qui però è interessante perché è un'epopea comica in cui un'attrice gioca con 67 personaggi e musica dei Balcani, quindi sono cose molto interessanti. In una maternità di Bruxelles, Jacqueline, incinta da 2 anni e mezzo, rifiuta di partorire. La medicina è impotente, il marito è disperato. Proprio all'ultimo, il dottor Subain fa appello alla scienza New Age di un sciamano vallone che, per liberare il bambino, entra, si immerge nella memoria della madre. Allora, Attila, regina di Belgio, l'Odissea di una madre, al Magic Land Theatre di Torkvorstraat 14 a Skarbek. E ogni giorno dal 24 al 28 marzo, e quindi siamo agli sgoccioli alle ore 8:30. A proposito di Balcani, invece, sempre al Bosar, dal 16 al 18 aprile ci sarà Balkan Traffic, e in realtà raccoglie un po' tutte quelle che sono le musiche balcaniche e, per la terza volta. E ci sono praticamente come ospiti d'onore quelle che sono poi tra virgolette le minoranze, si dice minoranze in italiano, a volte veramente mi sfuggono le parole, ebraiche e rom, con il concerto, diciamo, quindi l'evento di punta, The Klezmatics, e il progetto Rom a Roma, quindi Rom a Roma, è un bellissimo gioco di parole tra l'altro, e come tutti gli anni è stata selezionata da una giuria ad hoc, un insieme di film, di musiche e di balli, di tutti quelli che sono i paesi delle comunità dell'Europa sud-orientale. È possibile anche ritrovare delle creazioni esclusive, degli atelier, e ovviamente poter degustare quelle che sono le specialità e soprattutto i vini di quelle terre. Tutto ciò avrà luogo, quindi, come dicevamo prima, dal 16 al 18 aprile. Per quanti volessero saperne di più, balkantraffic.com. Insomma, abbiamo dato un'agenda ben nutrita. Prima di salutarci però, allora, un altro evento, perché inizia proprio questa sera, martedì 24, e anzi è già terminata perché iniziava alle 2 fino al 29, Eurantica. Eurantica Bruxelles seleziona rigorosamente 150 antiquari e gallerie d'arte di alto livello venute dal Belgio, dal Lussemburgo, dalla Francia, dall'Olanda, dal Regno Unito, la Germania, la Spagna e l'Italia. Ciascuno di questi antiquari espone quelle che sono i propri oggetti più rappresentativi, come mobili, pitture, sculture, tappeti, strumenti musicali, vecchie monete, quindi Art Nouveau e Art Déco, al palazzo numero 5 di Bruxelles, quindi al Brussels Expo. Per avere ulteriori informazioni, brusselsexpo.be, e per quanti volessero recarsi, è possibile praticamente scendere a metro Eisel, Brussels Expo, 02 474 8277. E poi aprite le orecchie, come ultima notizia, visto che il tempo tiranno è irreparabile, fugit tempus. Bene, sì. Beh, preparatevi, perché il mese prossimo, verso la fine del mese prossimo, arriverà un grandissimo, un personaggio che amo moltissimo, che è Paolo Conte. È sempre al Bosar. Abbiamo già una data, è stata resa nota? 29 aprile. Avremo modo di parlarne allora. Quindi, magari. Sì, abbiamo modo di parlarne, però preparatevi, cominciate ad andare in giro a cercare Paolo Conte sui siti belgi. It's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful. Vabbè, è una canzone famosissima insieme a tante altre, e a me piace molto Paolo Conte. Bene. Conosciuto 20 anni fa, è ancora. Benissimo. Allora, con quest'ultimo evento noi vi salutiamo, vi ringraziamo come sempre dell'attenzione. Saluto Dani M in regia, Fiordaliso per il libero angolo, Stefano e Paolo per l'angolo del jazz, ovviamente Giorgio, senza il quale come faremmo qui a Brusellato? La grande Meriti che ci organizza, che ci guida, che ci porta avanti, altrimenti senza di lei siamo persi. Vagheremo sempre intorno. E viva la primavera, un'ottima primavera a tutti, a martedì prossimo! Ciao! Avete ascoltato Brusellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.